Grazie. Allora, intanto sono molto contenta di essere qua, anche se mi dico che è tanto sporadiche, però servono sempre molto a riallacciare i figli e poi soprattutto le compagne di Remano, che non ringrazio mai abbastanza perché voi mi mandate sempre materiali, sono anni. Io sono molto in sintonia con tutto quello che avete detto, no? E anche noi, io lavoro con un gruppo a New York e da anni ci muoviamo su strade parallele, infatti la nostra analisi è ancora più drammatica perché noi sentiamo proprio i tamburi di guerra adesso. Non credo che l'America si sta preparando se non imminentemente, ma comunque sul lungo periodo già una guerra con la Cina e comunque c'è un continuo, una crescita della propaganda contro la Cina e la necessità di nuovi armamenti, la spesa militare sta aumentando enormemente e come analisi che abbiamo fatto, che è molto ricalca le analisi vostre, è che c'è da almeno tre decadi, cioè non è difficile, no? Parlo di decadi perché senz'altro tutto questo è nel contesto di una controrivoluzione, no? Contro gli anni 70, questo grosso scossone che gli anni 60 a livello internazionale hanno dato lo sviluppo capitalista. E già a partire dalla fine degli anni 70, no? Incomincia tutto un processo di recupero, un processo di grossa trasformazione dell'economia mondiale, no? Con la crisi del debito che incomincia a ricolonizzare, no, i paesi che uscivano dal colonialismo, o comunque anche se parzialmente, perché in nessun paese si è mai posto fine, no? C'è stata una decolonizzazione fittizia, se si vuole, nel senso che tutte le colonie hanno avuto la loro bandiera, hanno avuto il loro governo, però sono rimaste praticamente dipendenti, no, da questa volta dalle istituzioni finanziarie, il Fondo Monetario, il Banco Mondiale, che hanno cominciato tutto un processo di ricolonizzazione reale, sia finanziaria che militare. Questa è poi stata la base su cui poi si è ristrutturato il terzo del mondo, no? Il resto del mondo con il neoliberalismo, la privatizzazione. E come riassunto abbiamo visto che in questi anni è cominciata una guerra sia militare sia alla rivoluzione sociale, che ovviamente è diversa a seconda dei luoghi. È più intensa, ha forme diverse, ma proprio la guerra è una ristrutturazione molto grossa e anche noi, la Palestina è stato il laboratorio, la Palestina è stato il laboratorio e fra l'altro si parla molto poco, qui anche nei movimenti, per esempio negli Stati Uniti, si parla poco di cosa ha rappresentato Israele in questi anni nel mondo, no? Perché Israele è stato l'esecutore materiale di tutti i delitti, i crimini che molti gli Stati Uniti li hanno condotti nel loro nome, le guerre come l'Iraq, ma molte cose, no? Praticamente dal 48 ad oggi Israele ha appoggiato tutti i dittatori, no? Ha appoggiato in modo completo il Sudafrica bianco, il governo bianco del Sudafrica, addirittura aiutandoli a fare dei test nucleari, ha appoggiato Mobutu nel Congo, ha addestrato tutte le forze più repressive dei vari paesi africani fuori dall'Africa, oggi è all'avanguardia, il paese all'avanguardia nei sistemi di sorveglianza, creano i cancelli elettrificati, mi hanno detto che ci sono dei droni di Israele che controllano delle barche che vengono dalla Libia e dalla Tunisia, che sono i droni di Israele che oggi controllano. Adesso nella polizia negli Stati Uniti, in California, ci sono moltissimi corpi di polizia negli Stati Uniti che sono addestrati da Israele, quindi al confine tra Messico e Stati Uniti si è ricreato, no, le stesse forme di repressione e sorveglianza che ci sono in Palestina. C'è una situazione veramente drammatica. Poi il discorso della guerra alla rivoluzione, no? Guerra alla rivoluzione nel senso che c'è un capitalismo che in questo momento necessita, per svilupparsi, necessita estendersi in territori in cui non sono ancora dominanti e quindi a spiazzamenti di intere popolazioni, nuove forme di guerra, tutti questi cosiddetti narcotrafficanti, no? I paramilitari, tutto questo sottobosco, perché c'è i militari, c'è la guerra che appare la guerra tradizionale, poi ci sono tutte queste nuove forme di terrorismo di Stato nei confronti di popolazioni che devono essere scacciate dai loro luoghi, perché i loro luoghi devono essere aperte a nuove forme di investimenti petroliferi, minerari, edilizio, tutti i minerali che servono per la produzione digitale vengono estratti con la violenza, vengono estratti con le sorte, con la violenza e con l'espulsione delle popolazioni che vivono nei luoghi. E quindi anche tutte queste grosse ondate di migrazione, infatti anche quello orrendo, prima causano, costringono la gente a fuggire dai luoghi in cui vivono con tutto l'esproprio e con il terrore, perché quando si resiste all'esproprio allora arriva il terrore, arrivano i parlamentari, arrivano gli omicidi, arrivano tante forme di repressione violenta, ecco. Tra l'altro poi ritorno alla caccia alle streghe per le altre cose. E poi si criminalizzano gli emigranti quando questi invece lottano per assicurarsi un futuro, ecco. E quindi questa guerra, no, è una guerra che praticamente obbliga, secondo me, no, a tutti i livelli, il movimento femminista sia adesso un movimento contro la guerra e contro tutte le forme, contro le militarizzazioni, eccetera, ma anche apertamente un movimento antisistemico, no? Un movimento che si deve mettere a studiare, a capire quali sono i meccanismi che riproducono il capitalismo oggi, no? Per esempio, adesso penso qua, è morta l'anno scorso, un anno fa, Maria Mies, no? Del bellissimo libro Patriarcato e accumulazione su scala globale, no? E leggendolo in questo periodo, no, è molto importante, perché lei, per esempio, ha fatto tutta un'analisi della nuova divisione internazionale del lavoro, no? Dimostrando che la nuova divisione internazionale del lavoro, che si è proprio consolidata a partire dalla fine degli anni 70, no? Per cui si sono portate certe industrie nel cosiddetto terzo mondo, no? Si è trasformata l'economia dell'Europa dell'America in economia di servizi, eccetera. Tutta questa. E poi il fatto che gran parte, per esempio, dell'agricoltura, dei prodotti agricoli, ormai vengono da zone, no? Vengono da zone dove appunto le terre sono espropriate, sono commercializzate, sono espropriate da chi una volta le usava per sostentarsi, no? Quindi c'è questa, al fondo di tutto questo c'è una divisione internazionale del lavoro per cui chi produce non consuma, no? E il consumo di parte limitate del mondo si fonda sulla miseria, sulla violenza, sulla guerra, sull'impoverimento, eccetera, no? E quindi come partire da lì, che non è appunto un discorso facile, no? Le Nazioni Unite hanno celebrato l'anno scorso, no, il fatto che per la prima volta nella storia dell'umanità la maggioranza della popolazione del mondo vive in aree urbane. Ci stanno costringendo, come sai, come gli animali si stanno espellendo, no, progressivamente da qualsiasi accesso diretto ai beni fondamentali, perché i mari, le acque, i boschi, la terra sono i beni, senza di quelli moriamo, non è possibile, senza di quelli ci possono imporre, non so, il mangiare chimico, si possono imporre qualsiasi cosa, no? Una volta che abbiamo perso il contatto con i territori, con la terra, con i boschi, con gli animali, con il mare, con i fiumi, veramente, ecco, invece loro hanno celebrato questo, il fatto che sempre più la gente, no, viene, io dico, viene spinta, loro dicono si convergono, perché la città offre tutte queste belle possibilità che avete elencato, no? Ecco, diventa la città. No, e l'hanno celebrato, invece è un processo che è un piano del capitale, un piano del capitalismo internazionale di farci perdere appunto questo tipo di contatto, questo tipo di controllo, no? Quindi tutto il discorso su come ricostruire i processi della rivoluzione, come ricostruire, no? Noi abbiamo parlato molto dei guardando anche l'America Latina, guardando i regimi indigeni, perché ovviamente le persone indigene sono nel mirino, proprio sono nel mirino, e nello stesso tempo stanno facendo lotte molto grosse per non abbandonare regimi comunitari, non abbandonare le loro terre, no? Quindi tutti i discorsi di come rilocalizzare l'economia, rilocalizzare la produzione, no? La problematica di ricongiungere produzione e consumo, di creare appunto forme di solidarietà e di relazioni comunitarie che ci permettono di avere più forza nei rapporti con lo Stato. Questo è stato al centro e continua a essere, e verifichiamo le stesse cose. Non sapevo che venisse da Israele anche questo della telemedicina. Ha recentemente dei compagni a New York, che sono dottori ma che sono in dissenso nei confronti delle istituzioni mediche, ci hanno detto che l'ospedale ormai è una cosa finita per il pubblico. L'ospedale ormai è per i pochi, per i ricchi, la clinica e tutto questo. Nello spazio di pochi anni avremo la televisita, che già adesso a noi, se non stai molto male, hai la televisita, ecco. E comunque ci hanno detto, no, questo è proprio una direttiva, non è solamente casuale, e sarà, chi starà molto male avrà questi ambulatori locali che si attrezzeranno in qualche modo per fornire una medicina di seconda classe, no? E quindi, ecco, e questo, appunto, su questi temi, questi sono i temi che stiamo muovendoci, no? Come creare strutture, infrastrutture dal basso al mente, no? Come pensare a pensare a alternative, no, soprattutto nei confronti della produzione, quindi fare molto lavoro femminista anche sul discorso della cura, ma come cura anche medica, no? Quindi diffondere, occuparci di no, delle questioni della salute, di pensare in modo che sia questo. Il discorso della produzione di cibo, dove attingiamo, dove, no? L'agricoltura, le forme di rapporto con i produttori diretti, no? Quindi mettere al centro del femminismo queste tematiche di un cambiamento di sistema, ovviamente il cambiamento di sistema, di pensare proprio da a partire da qualsiasi tipo di lotta dal di là del capitalismo, perché il capitalismo ci sta portando alla rovina in tutti i sensi, cioè non c'è un'alternativa, cioè non c'è un'alternativa, no? Ecco, ci hai già detto mille volte in tante forme diverse, per esempio, non so, per garantire livelli minimi di vita, no, di vita economica e sociale alla maggioranza della popolazione del mondo, si dovrebbero saccheggiare altri 5 o 6 pianeti. Se quello che ha costato, no, il garantire certi livelli di cosiddetta prosperità, no, a una parte limitata del mondo, molto limitata del mondo, significa che, no, ci vorrebbero altri 5 o 6 pianeti da saccheggiare per diffondere a livello più generale, no, questo tipo di livelli di vita, no? Quindi in realtà andiamo verso un impoverimento sempre più grosso e quindi una riduzione sia quantitativa che qualitativa della vita, una riduzione qualitativa, no? Ecco, questo è la mia... Sì.